that is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular. You should know. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre Gianluca. Altra puntata, ritorniamo alle interviste, questa volta è il turno di una formazione di Novara che ci viene a presentare il loro primo disco. A voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, siamo gli Artemista, sono Fora, bassista. Ciao, io invece sono Umberto, alla chitarra. E gli altri componenti sono Fabio Moreno alla voce, Davide a synth programmazione e Matteo alla batteria. E noi suoniamo da diversi anni insieme, una decina quasi, e insomma adesso abbiamo appena finito di registrare il nostro disco, è uscito la settimana scorsa e quindi insomma stiamo promuoviamo. Bene. E con gli Artemista è una puntata in cui ascolteremo molto rock inglese tra gli anni 80 e 90. Abbiamo cominciato con gli Smiths, dal disco Mitty's Murders del 1985, ci hanno fatto ascoltare il brano How Soon Is Now, band simbolo della new wave inglese che negli anni 80 ancora oggi fa proseliti nonostante sia durata solo 3 anni. Che ne pensate? Beh, sicuramente la new wave influenza molti, molti artisti anche attuali. Pensiamo ad esempio gli Editors, con cui certo abbiamo avuto la fortuna di condividere il palco. Ecco, vedi. Ma ce ne sono tanti. Ma diciamo che la musica è alle volte è ciclica, quindi ci sono anche altri ricorsi, come ad esempio ci sono Oasis, Star Sailor, piuttosto che si rifanno al pop anni 60 inglese. Certo. Gli Artemista sono attivi dal 2002, come vi siete formati e su cosa si basa la scelta del nome? Beh, allora, ci siamo formati all'inizio un po' così per, diciamo, amicizie comuni. Io ero amico con Fabio il cantante, Fabio a sua volta era amico con Marco. Abbiamo provato a fare qualche prova insieme così per vedere come girava all'inizio il progetto, ci è piaciuto e siamo andati avanti. Dopodiché ci sono stati alcuni cambi di formazione e adesso abbiamo trovato quella definitiva, siamo appunto in 5. E Artemista fondamentalmente è un progetto che vuole non essere solo fine ad essere un gruppo musicale, ma qualcosa di più. Sì, coinvolgere anche altre forme d'arte. Proseguiamo il nostro viaggio nel rock inglese degli anni 80 con i Siouxsie and the Banshees. La nota formazione Darkwave esce nel 1980 con il disco Kaleidoscope, da cui ascoltiamo il brano Happy House. Thank you. band che ha iniziato la sua storia nel punk, ma che all'alba della nuova decade ha trovato un suo percorso musicale completamente originale. Che ne dite? Beh sì, sicuramente sono partiti da una fanbase punk, puramente punk, poi si sono evoluti, ma penso che sia normale perché hanno vissuto un'epoca in cui l'avvento dei synth, comunque certo, della musica digitale è stato molto... molto sentite, forte, ecco, insomma, è stato protagonista di quegli anni. Certo. Sì. Poi vabbè, è normale, nel senso che penso che sia un'evoluzione che sia giusto che qualsiasi musicista abbia. La sperimentazione fa parte proprio del, penso, del ciclo di ogni artista che vuole evolversi. Noi stessi non siamo partiti facendo musica elettronica, comunque avendo una componente elettronica come abbiamo, ma nel corso degli anni imparando anche nuovi strumenti. Vostre esibizioni come sono andate finora e come ha reagito il pubblico ai live? Beh, le nostre esibizioni finora sono andate bene. Per ora abbiamo fatto ovviamente due live dall'uscita del disco. La prima data è stata una presentazione, proprio un release party, 4 giorni prima dell'uscita ufficiale. E... che è andato molto bene, esatto. Insomma, la gente ha risposto bene anche in termini di entusiasmo, sì, esatto. La seconda invece è stata fatta 3 giorni fa alla Rock and Roll Arena nella nostra zona romagnano-sese. Abbiamo aperto ai Rezzofonic, è un progetto insomma a cui teniamo molto, anche per lo scopo benefico, certo. Questa prima parte finisce con i Chords, vengono ricordati per aver condiviso un tour nei primi anni 80 con i Jam e per la loro grande affinità con la band di Paul Weller, dal loro unico disco So Far Away del 1980, il brano Maybe Tomorrow.